il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Che spettacolo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, anche questa settimana. Mi hanno dovuto addirittura chiamare qui in diretta perché ero ancora di là a non capacitarmi e continuavo a guardare le notizie. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Questo paese è il paese dei cilindri, dei conigli. È una cosa, un continuo proliferare, tirare fuori. Proprio una grande fantasia, anche grande creatività. Quindi mettiamoci un po' nell'ottica di fare insomma un riassunto mentale di tutto quello che avete sentito in questi giorni e di sottoporre anche l'opinionista estemporanea che vi presenterò tra pochissimo, qual è la notizia che vi ha colpito di più, qual è la vostra notizia della settimana. Cioè veramente davvero l'imbarazzo della scelta, tanto che sono molto molto imbarazzata, ma come sempre cercherò di farvi un sunto brevissimo all'inizio, poi voi naturalmente tirate fuori notizie che credete basta, spero che siano di interesse collettivo. Il numero verde è sempre a vostra disposizione, il numero verde, quindi gratuito ma anche ecologico, perché come sempre vi dico, evitate di disperdere le vostre energie, il vostro tempo, i vostri pensieri altrove, convogliateli qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Il numero verde è 800 24 00 24, ripeto molto lentamente, 800 24 00 24. E allora, così giusto per darvi un po' un'idea, una panoramica breve e generale, intanto è molto interessante che il presidente americano Obama abbia fatto causa alla Standard & Poor's. Quante volte l'abbiamo sentita negli ultimi 2-3 anni, questa agenzia di rating internazionale che ogni tanto abbassa, fa il downgrade, abbassa il livello di affidabilità di una banca, di un paese, di un'azienda, no? Quante volte l'ha fatto anche con l'Italia. Bene, Obama fa causa a Standard & Poor's perché dice scatenò la crisi dei mutui subprime, quelli americani, da cui poi appunto iniziò tutta questa crisi mondiale. Poi per quanto riguarda noi abbiamo i nostri guai, naturalmente Monte dei Paschi di Siena, anche lì ogni giorno ne viene fuori una diversa, e poi proprio per non annoiarci anche la vicenda Saipem con questa presunta maxi tangente in Algeria con l'amministratore delegato di Eni. Saipem è una controllata di Eni, indagato per corruzione. Le varie proposte shock, quante proposte abbiamo sentito in questi giorni, le varie prove di intesa nelle alleanze, non si capisce chi sta con chi, insomma. Poi l'allarme della Corte dei Conti che dice fisco e corruzione frenano l'economia. Potrebbe dire bella scoperta, però ogni tanto è bene che la Corte dei Conti ce lo ricordi. La situazione incandescente in Tunisia, e poi per restare all'estero anche la Gran Bretagna si unisce ai tanti paesi europei che dicono sì al matrimonio gay. C'è stato un primo sì del Parlamento, poi entro 2 settimane mi sembra dovrebbe arrivare il sì definitivo, e pensate che sono stati i conservatori a prendere questa decisione. Il primo ministro Cameron è un conservatore e ha detto, ha fatto una dichiarazione che mi ha colpita molto, ma che magari vi ricorderò poi durante la trasmissione. Tra poco vi presento, dicevo, l'opinionista estemporanea, ma anche questa volta e come sempre ci diciamo che cos'è che anche questa settimana dimostra che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere, sono un granché. Eh sì, allora voi avete presente, no, il paniere dell'Istat, questo cestone dove ci sono dentro tutti i prodotti di maggior consumo, no, che sono i consumi di massa della collettività, sui quali si misurano, sui prezzi dei quali l'inflazione. Ebbene, ogni tanto esce qualcosa da questo paniere, entra qualcos'altro a seconda dei cambiamenti, no? Ecco, quindi il paniere dell'Istat per antonomasia ci dice che non ci sono più le mezze stagioni. Che cosa esce? Escono le mediazioni civili, mi chiedo perché, nel senso che nessuno media più, ormai ci si dà cazzotti, ci si fa i conti sotto casa, non lo so, e i netbook che sono già roba del trapassato remoto, perché qui la tecnologia va avanti. E cosa entra nel paniere dell'Istat? Ah, se ne vanno i diari. Pensate, no? Questa nota poetica così nostalgica, i diari non esistono più, nessuno più scrive il diario, fanno prima scrivere libri, tutti scrivono libri, il diario, diciamo energia sprecata. Ebbene, entrano le bevande energetiche. E questo cosa vi dice che nel paniere entra le bevande energetiche? La gente non ne può più, non sa più dove appigliarsi, dove agganciarsi, e giù si fa tutto un litro di bevande energetiche. Cioè, speriamo che questa mi aiuti a tenermi su. Bene, a questo punto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, direi che è il momento di presentarvi l'opinionista estemporanea di oggi. Loretta Napoleoni. Loretta. Pronto? Sì. Ecco. Loretta Napoleoni. Sono qui, non ti aspettavo. Il rullo dei tamburi ti ha dato un po', diciamo, un momento di quesiti. Ti ha presa in contropiede. Loretta Napoleoni, solo ha un cognome che ci evoca così qualcosa di grandioso, no? Ma è grandiosa lei, perché Loretta Napoleoni è non solo economista, ma è anche uno dei massimi esperti internazionali di terrorismo. Stiamo mica parlando col primo che passa sotto casa. Fra l'altro, vi faccio un lungo elenco, non riuscivo a tenere tutto, diciamo, in mente e negli appunti che mi sono presa, perché ha tanti di quei titoli che, insomma, cerchiamo di fare un riassunto. Allora, vi ho detto, tra i massimi esperti mondiali di terrorismo, economista, vive tra Londra e gli Stati Uniti, anche se è nata a Roma, ha un sacco di titoli accademici, ha lavorato come economista nella City di Londra e negli Stati Uniti per banche e organizzazioni internazionali, collabora con numerose forze dell'ordine, con la Homeland Security statunitense, l'International Institute of Counter Terrorism, anche con esercito turco, cose pazzesche, è consulente per la BBC, la CNN, editorialista del Paese, Le Monde, The Guardian, in Italia scrive per vari giornali, l'Unità, l'Espresso, il Venerdì, Repubblica, docente di economia alla Judge Business Schools di Cambridge e a questo punto direi, oltre a aver scritto diversi saggi, l'ultimo qui tra le mani, Democrazia vendesi, diciamo, tanto per tirarci sul morale, ecco, mi sembra un ottimo titolo, dalla crisi economica alla politica delle schede bianche, appena pubblicato da Rizzoli, un libro veramente molto interessante e molto suggestivo. E come se non bastasse, lo dico perché gli uomini capiscano bene quanto le donne possano essere bioniche, e oltretutto questo ha 4 figli. Loretta, come hai fatto a tirare su, in mezzo a tutta questa roba, anche 4 figli? Scusa se te lo chiedo proprio così, da dormo donna. Dormo poco. Dormi molto poco. Secondo me non dormi proprio, perché non devo dire. Ma penso c'è una certa età anche. Insomma. C'hai una certa età? Credo. Ma e comunque, insomma, e comunque donna bionica, perché io non lo so, mi piacerebbe sentire i tuoi figli, ma adesso lasciamo perdere, diciamo, la vita privata, magari in un altro momento me li presenti. Ma io ti volevo chiedere, Loretta, noi adesso ci buttiamo a capofitto nell'attualità, nelle notizie, poi naturalmente con vari riferimenti al tuo libro, che purtroppo è anche molto attuale. E ti volevo chiedere una cosa che mi preoccupa anche personalmente, no? Con le varie proposte che sono state fatte in questi giorni, io ho avuto paura, perché quando ne ho sentite di grosse, ho pensato, ma vuoi vedere, girava proprio voce che Berlusconi, che forse ha fatto quelle ancora più grosse, più scioccanti, vuoi vedere che prima o poi restituisce anche le mezze stagioni? Così la mia trasmissione, il titolo che ho scelto, perde di senso completamente, io non so più che cosa, che pesci prendere. Secondo te è possibile che si restituiscono anche le mezze stagioni? Secondo me tutto è possibile in Italia, ormai in questa campagna elettorale non c'è limite a quello che verrà restituito, a quello che ha promosso. Oggi c'era un articolo interessantissimo nella prima pagina dell'International Tribune in cui descrivevano la campagna elettorale italiana e dicevano che è fantastica, cioè nel senso fantastica proprio nel... Erano divertiti, insomma, creativa, possiamo dire creativa, no? Decisamente creativa. E infatti, proprio questo volevo anche chiedere a te inizialmente, tu che vivi tra gli Stati Uniti e Londra, hai un punto di vista, diciamo, sì e no, distaccato e privilegiato, perché puoi guardare dall'esterno, no? Come guardassi la boccia di vetro con dentro i pesci, e l'impressione, quindi anche tu sei abbastanza divertita. Sì, io sono abbastanza, devo dire, se non fosse una situazione drammatica, uno potrebbe ridere, nel senso è assurdo, qui si fanno delle promesse, si fanno promesse di abbassare delle tasse che sono state appena aumentate pochi mesi fa, adesso le stesse persone che le hanno aumentate promettono di abbassarle, tutti quelli che le hanno votate, devo dire, tutti, chi più chi meno. Tutti. Allora, in tutto questo noi abbiamo il pareggio di bilancio nella Costituzione, che ogni anno dobbiamo tirar fuori 50 miliardi di euro, quindi se abbattiamo pure le tasse, non lo so, da dove li tiriamo fuori questi soldi? Forse chiameremo un prestigiatore, non lo so. Credo di sì, credo che l'Italia potrebbe diventare un paese favorevole agli illusionisti e prestigiatori. Quindi quando si dice, no, della crisi del lavoro, l'occupazione, che si fa? Provate davvero a industriarvi, a fare gli illusionisti, chissà, insomma, non possiate avere un futuro in questo paese. Tra l'altro, prima di passare brevemente al tuo libro, Loretta Napoleoni, ti dico, il Corriere pubblicava proprio in questi giorni, questa settimana, vabbè, i tre principali, adesso non vogliamo fare discriminazione tra tutti i candidati ufficiali che sono Bersani, Berlusconi, immagino, anche se ancora lì non si è chiarito chi è. Sì, Monti, Ingroia e Giannino, cioè anche Giannino. E il Corriere però pubblicava quello che intendono fare nel primo consiglio dei ministri i tre principali partiti, no? Che, allora, il PD dice vuole partire dai diritti di cittadinanza per gli immigrati, il falso in bilancio e via l'IMU per chi ha pagato meno di 500 euro, questo per il PD. Il PDL nel primo consiglio dei ministri, attenzione, promette Berlusconi via l'IMU sulla prima casa, il finanziamento ai partiti, via il finanziamento ai partiti, ieri parlava anche di condono tombale anche edilizio. E poi Monti nel primo consiglio dei ministri cosa farà? Ha promesso di tagliare subito il finanziamento pubblico dei partiti, dimezzato il numero dei parlamentari. Io mi chiedo quante ore, quanti giorni deve durare questo primo consiglio dei ministri per riuscire a fare tutte queste cose. Mi sono chiesta, una maratona infinita. Sì, a parte il fatto che la macchina burocratica è talmente lenta che sicuramente non arriveranno a fare nulla almeno per i primi sei mesi, quindi... Ho il sospetto anch'io, però. Sì, e poi c'è Bruxelles, nel senso, io non ho capito, adesso praticamente tutti vogliono togliere l'IMO, chi in un modo, chi in un altro, e Bruxelles che cosa farà? Che cosa farà Bruxelles? Dirà, ah sì, va bene, avete tolto l'IMO, non c'è problema, avete un debito pubblico che è aumentato rispetto al PIL, l'austerità non la fate più, continuate pure per la vostra strada. Ma non credo che questo succederà, specialmente in un anno elettorale in Germania. Loretta, il tuo libro Democrazia Vendesi è un libro dove tu parli di intanto dici che è un lavoro di gruppo, un'analisi scientifica, no? Addirittura la tua, e parli di questa degenerazione del capitalismo a livello mondiale e di una sorta di dipendenza, schiavitù che si è creata tra i paesi del nord Europa e del nord Occidente e dei paesi invece del sud, tra cui l'Italia. Parli di questo debito infinito, perpetuato, fai l'esempio di alcuni villaggi dell'Himalaya dove ci sono delle classi potenti e degli specie di paria che sono in continuo debito con queste classi più potenti e addirittura come tradizione secolare prostituiscono figlie e mogli per saldare questi debiti che non finiscono mai. Cosa aberrante naturalmente per quanto riguarda le donne che sono sfruttate in tutti i modi in tutto il mondo. Ma quindi questo è un po' il concetto di fondo tuo, sì, di questo libro. Sì, io uso questo esempio all'inizio del libro proprio per mettere in evidenza che alla fine questo debito perpetuo, perché di debito perpetuo si tratta, l'Italia ha un debito di 2.000 miliardi di euro, per poterlo ripagare dovrebbe crescere al 10%. Così come la vedo molto difficile. Non c'è neanche negli anni 50 crescevamo al 10%, la Cina oggi cresce tra il 7 e l'8%, quindi è chiaro che questo debito non verrà mai ripagato. Certo, una parte del debito è nelle mani degli italiani e quindi quello potrebbe anche non essere ripagato e rinnovato di generazione in generazione, ma il debito esterno, diciamo la volontà espressa da Bruxelles è che questo debito venga ripagato, quindi è praticamente possibile. Allora cosa succede? Succede che il modo attraverso il quale si va avanti in una situazione di questo debito perpetuo è l'indebitamento per pagare gli interessi sul debito, e questo diventa, diciamo, un meccanismo micidiale che appunto si tramanda di padre in figlio. Chi è che paga in realtà questo debito? Alla fine chi paga le tasse in Italia? Quindi una piccola parte della popolazione che è vessata costantemente, perché appunto la parte della popolazione onesta, ecco insomma, diciamo, il parallelo con le donne, sono sempre i più deboli ma anche più desiderabili ad essere condizionati ed ad essere sacrificati. Andrei sulle tante telefonate che stanno arrivando, cominciando da Luigi da Imperia. Eccoci. Pronto. Luigi, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Volevo dire una cosa che può sembrare utopistica. Intanto una metafora. Secondo me l'Italia ormai è al punto di un malato moribondo intorno al quale stanno migliaia di medici che emettono diagnosi ma nessuna cura, se non qualche placebo o utopistiche cure. Mentre l'unico forse rimedio, non capisco com'è che nessuno lo comprenda, è sperare in una prossima generazione, se non che questa prossima generazione avrebbe bisogno, addirittura vi cita Aristotele, di una specie di educazione forzata, filosofica, che non esiste affatto. Voi avete l'idea, i ragazzi passano statisticamente 900 ore all'anno davanti a scuola e circa 5.000 davanti al televisore, telefonini e tutti i marchingegni della tecnologia. Quindi questo è l'unico, secondo me, rimedio. Mi meraviglio che nessuno se ne accorga. Luigi, accorgersene, diciamo che le persone lo più... giuro, non lo sento nominare. Sono spariti i cosiddetti intellettuali, spariti. L'ultimo che ricordo è Galimberti. Umberto? Sì, l'ultimo ogni tanto, che ricordo. Sì, che ogni tanto qui non ci sono più le mezze stagioni, tra l'altro un po' che non ci sentiamo, ma caro Luigi, questo in realtà tu dici utopistico, effettivamente in realtà io lo sento dire da molti, però diventa quasi un luogo comune, no? Perché anche le nuove generazioni, a parte la formazione nelle scuole, anche la società in famiglia, ma che futuro, si continua a dire che futuro diamo, visto che c'è la precarietà come destino, visto che, come diceva Loretta Napoleoni, cadono le colpe dai padri e figli, direi dalle padri anche alle figlie. Ma ti volevo dire, visto che mi hai citato la televisione, i giovani stanno troppo davanti alla televisione, per invitarvi a stare davanti alla radio, anzi non avete bisogno di stare lì come fosse un totem, potete girare, fare le vostre cose. Vi dico subito questo, prima che qualcuno mi dica non l'hai detto: uno studio in questi giorni dell'università di Harvard negli Stati Uniti ha detto che gli uomini che guardano troppo la televisione, i maschi in genere guardano la televisione, hanno una qualità dello sperma che diminuisce precipitosamente. Quindi sappiatelo, io ve l'ho detto, preferiate la radio, Radio 24, e non ci sono più le mezze stagioni il sabato dalle 14 alle 15 piuttosto che la televisione, che poi porta questi sconvenienti. Diciamo. Loretta Napoleoni, volevi rispondere a Luigi? Ma non... È vero che la tecnologia moderna ha portato a dei cambiamenti di comportamento da parte dei giovani e anche dei meno giovani, però non è detto che che la tecnologia moderna sia necessariamente negativa, cioè bisogna chiaramente essere in grado di autodisciplinarsi, nel senso, se uno poi si mette davanti alla televisione e non fa nient'altro, però è vero anche che ci sono molti giovani che sono attivi, ci sono molti giovani che cercano di cambiare questo mondo che sta diventando un mondo sempre più ostile a loro, ma non solamente in Italia, io parlo proprio di tutto quanto l'Occidente, quindi non generalizzerei troppo. Certo, ci sono delle difficoltà contingenti per queste nuove generazioni che demotivano sì. No, per esempio l'abbandono dell'università, che era della scorsa settimana, dei numeri molto preoccupanti in Italia. Sì, in Italia c'è un impoverimento generale e quindi questo si sente sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista scolastico, però è anche vero che queste generazioni che il diciottenne di oggi, ma anche il 25enne ha davanti la cosiddetta generazione dei baby boomers, non ci dimentichiamo, quindi quella generazione nata dopo la seconda guerra mondiale, che è una generazione molto molto numerosa, quindi è più difficile, ed è una generazione che non vuole andarsene in pensione, nel senso non vuole abbandonare quelle posizioni di potere, quelle posizioni di controllo che ha ottenuto nel corso degli anni. Quindi c'è meno spazio anche per questo. Ma se ci vogliono, scusa Loretta se ti interrompo, ma se ci vogliono tra l'altro far lavorare fino a 70 e più anni, anche molti i giorni scorsi diceva bisogna aumentare ulteriormente l'età pensionabile, come fanno a entrare anche gli altri? Come facciamo ad alternarci se bisogna andare avanti all'ergastolo praticamente a lavorare, no? Sì, infatti queste qui sono delle contraddizioni enormi. Noi dovremmo avere un ricambio generazionale, però non possiamo avere un ricambio generazionale perché noi più anziani siamo troppi rispetto a quelli che sono venuti dopo di noi, quindi non c'è proprio chi va in pensione oggi dovrebbe essere la pensione dovrebbe essere generata dal lavoro dei giovani, però la percentuale dei giovani è minore, il lavoro per i giovani è estremamente precario perché c'è il precariato e quindi non c'è abbastanza per poter andare, è un po' un cane che si morde la coda. Sì, anche perché chi vorrebbe andare in pensione non ci può andare, chi dovrebbe andare in pensione non ci vuole andare. Quindi è veramente cosa paradossale. Sentiamo sempre il numero verde 800 24 00 24, mentre prepariamo il collegamento satellitare, e c'è Giorgio De Luca che sta ricevendo centinaia e centinaia di telefonate, quindi diamo un po' di spazio. Per esempio a Gianfranco da Pordenone al numero verde 800 24 00 24. Caro Gianfranco? Sì, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo, è un argomento che non volevo neanche fare, ma sullo scandalo da Eni, no? Sì. Quello scandalo che ci stanno dicendo che è così brutto. Ma io direi ai nostri giudici di guardare più in Italia, che ci sono cose, che ci sono gente corrotta che non ne possiamo più. Ma quella corruzione Eni, se vogliamo guardarla dal lato più egoisticamente italiano, è un vantaggio, dice, per noi. È una tangente che ci ha portato 11 miliardi di lavoro in Italia. Sì, cioè sono quelle cose che nell'ambito internazionale sono una cosa, una prassi, no? E forse i nostri giudici non lo sanno o fanno finta di non saperlo e vanno a scoprire una pentola che sarebbe meglio tenerla chiusa per i nostri interessi. Se vogliamo essere egoisti, se vogliamo essere opportunisti, ah, va bene, allora va bene. Ma poi volevo, più che altro, questo è una cosa a parte, entrare in merito a quello che è la politica italiana in questo momento, no? Sì. Io sono un po' vecchietto, quindi ho 65 anni quasi. Beh, sei vecchietto, su. Insomma, purtroppo lavoro ancora. E a proposito di pensione, io avrò 46 anni di lavoro, ma proprio ho retribuito e pagato le tasse e i contributi. Quindi, e dopo 46 anni non puoi andare ancora? No, no, ma sono già in pensione, per dire la verità. Ma ho un'attività che mi lega ancora ai debiti che ho fatto, nel senso che ho fatto un investimento, ho un capannone da pagare, ho delle responsabilità verso i miei dipendenti, e di sei farli andare avanti. E quindi mi piace il mio lavoro e lo devo continuarlo. Questo è una cosa. Ma guardiamo i politici nostri italiani. Io, se devo andare a votare oggi, sono in difficoltà, anche se una idea ce l'ho ormai. Ma perché non vedo, quando sento parlare di... Che idea hai? Che idea hai, Gianfranco? Ma io sono sempre stato un democristiano, se vogliamo, e volevo venire a questo, cioè ho letto, sono diventato democristiano leggendo De Gasperi, no? Essendo adesso non c'è più De Gasperi, proprio mi sembra che non ci sia neanche l'ombra di De Gasperi. Ma quello che ha scritto De Gasperi andrebbe bene ancora, perché De Gasperi diceva che la differenza tra un politico e uno statista sta nel fatto che il politico pensa alle votazioni prossime. Lo statista pensa alle prossime generazioni. Pensa alle prossime generazioni, ecco, lo sai benissimo, chiaramente anche tu. E quindi io guardo questi qui, nessuno pensa alle prossime generazioni. Nessuno. È vero, Gianfranco, come diceva prima Luigi. Gianfranco, io ti ringrazio molto e chiedo prima del nostro Loretta, se vuoi dire questa cosa dell'Eni, è una provocazione di Gianfranco, ma tu come la leggi? Perché è una tangente che sembrerebbe servita per dare gli appalti poi a Eni, Saipem in Italia, no? Hanno pagato in Algeria le autorità, i funzionari, eccetera, eccetera, e quindi hanno ottenuto questi appalti. Lui dice, beh, per noi è meglio. Ma io devo dire che sono contraria a questo tipo di attività, nel senso, il momento in cui uno comincia a rompere alcuni dei principi fondamentali etici, le regole internazionali, esatto, in cui crolla tutto. Allora uno a questo punto può dire, anche il crimine organizzato da lavorare a tanta gente, che facciamo, lo lasciamo impunito. Purtroppo qui in Italia ci vuole un processo anche di moralizzazione del business, e se l'attività è questa, cioè se, diciamo, tutte le imprese fanno questo, allora c'è bisogno di un processo di moralizzazione di tutto quanto il business internazionale. Io tra l'altro alla Judge Business School insegno business ethics, quindi insegno l'etica negli affari. E quindi non potresti mai avallare? No, ma vi posso garantire che l'etica è il motore principale della crescita, nel senso, nel momento in cui uno inizia a perseguire dei principi che sono dei principi etici, allora abbiamo la vera libera concorrenza, che è quella che fatta in base al merito. Esatto, no? Esatto, quindi anche la teoria economica, nel momento in cui io ho queste deviazioni che vengono create appunto dalle tangenti, un classico esempio in cui la libera concorrenza non funziona, ecco che l'economia non funziona più come dovrebbe e prima o poi noi incappiamo in delle crisi, infatti eccoci dove ci troviamo, quindi no, io non sono d'accordo. Neanch'io, e spero che Gianfranco si sia convinto con questa tua spiegazione impeccabile. Ora sì, abbiamo giusto, sapete, questo è l'unico programma al mondo che si collega anche con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Mentre puntavo, come sempre, da quassù da Marte in questi giorni il telescopio verso il globo terracqueo con palese preferenza, è ormai noto, lo sapete, per lo stivaletto italico, ho inaspettatamente percepito una serie di esplosioni. Ho pensato con grande e vibrante preoccupazione che fosse scoppiata la terza guerra mondiale e regionale, ma poi ho capito, rassicurandomi, che era solo un effetto naturale, fisiologico, della campagna elettorale in corso. Le stavano cioè sparando grosse, talvolta grossissime. Tanto grosse che a volte se ne rendevano conto gli stessi concorrenti. Ma Berlusconi ha detto un'altra delle sue stronzate, ma la stronzata di oggi, è la più grossa di tutte. Ha detto che farà 4 milioni di posti di lavoro. Altri concorrenti rispondono persino con corpi contundenti. Quando sento parlare di sorpasso, io rispondo col binocolo. E poi tutti che discutono di matrimoni gay, forse per distrarre l'attenzione e non dover fare loro coming out? Chi sta con chi, dunque? Bersani si metterà o no con Monti o lo disdegnerà per non rovinare il rapporto con Vendola? E il professore ci starà con Nichi o no? O faranno magari il triangolo? Il triangolo no, non l'avevo considerato. E quello tra la Lega e il PDL è un matrimonio, un'unione civile alla tedesca o una convivenza di convenienza? Scusi lei, mi amo no. Non lo so, però ci sto. Insomma, in campagna elettorale ogni buttata e ogni mossa vale. Sapete invece i paletti a chi li mettono? Al carnevale, là dove si potrebbe fare i pagliacci senza conseguenze per il paese, c'è in questi giorni una pioggia di ordinanze da parte di vari comuni, dalla Liguria alla Sicilia, che bandiscono per il carnevale maschere, ortaggi e spade di Zorro. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. Ritorniamo con i piedi per terra e tra poco risenteremo l'opinionista estemporanea di oggi Loretta Napoleoni e le vostre telefonate, Marco da Roma, Carlo da Roma e tutti gli altri, le altre all'800 24 00 24. Le notizie sono moltissime, vediamo cosa riusciamo a affrontare. Poi anche la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, hanno risposto moltissimi sia sui matrimoni gay che anche su chi l'ha sparata più grossa questa settimana. Ci sono varie interpretazioni, poi vediamo se oltre a leggermi per me riuscirò anche a leggerle voi. Tra poco ci ritorniamo sui temi dell'economia, della finanza. Ci sono Marco da Roma, Carlo da Roma, Maurizio da Torino, sempre al numero verde 800 24 00 24. Ma volevo introdurre brevemente un altro argomento, visto che è molto caldo nella campagna elettorale italiana, ma non si capisce insomma che decisioni verranno prese. Anche Monti ha leggermente cambiato opinione qualche giorno fa, mi pare fosse su non mi ricordo se era la 7. E che cosa ne pensi tu, Loretta Napoleoni, del sì del Parlamento inglese, poi deve ratificarlo completamente nelle prossime settimane, sui matrimoni gay, di quello che invece in Italia è completamente ancora fermo, bloccato, un po' nel vago? E c'è un invito questa settimana del Fatto Quotidiano di Antonio Padellaro, il direttore, che dice: se tutti dicessero lo sono anch'io, avrebbe tutto un altro valore socialmente, insomma sarebbe una cosa che entrerebbe nella mentalità di tutti senza difficoltà. Dice: se Bersani, Berlusconi, fa un appello, Bersani, Berlusconi, Monti, Casini, Fini, Grillo, Ingroia, come nel film In e Out, se i leader della politica italiana esprimessero la loro solidarietà a Vendola, che dice che non riesce a uscire da solo la sera a Roma perché paura di essere aggredito, se tu dicessero lo sono anch'io, questa cosa sarebbe deflagrante. Che pensi? Ma io penso che ci sia bisogno di una cosa di questo tipo, nel senso, il matrimonio gay è stato equiparato, diciamo, il matrimonio eterosessuale in tantissimi paesi, per esempio in Olanda sono anni che... Beh, ma in gran parte di Europa adesso comincia, dalla Francia, alla Gran Bretagna... Non vedo quale sia il problema. Perché è un problema in Italia? Ma, non so, io vivo all'estero, nel senso sono 30 anni che vivo nei paesi anglosassoni, cioè gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, quindi per me è normalissimo, cioè non c'è differenza, io ho tantissimi amici che sono coppie gay e sono andata ai loro matrimoni. Senti, non è, per questo non è scoppiata la guerra mondiale lì, no, o sono distrutte le famiglie tradizionali, no, o si è diffusa qualche malattia per caso? Mi sembra che sotto un certo punto di vista la regolarizzazione del rapporto omosessuale sulle linee del rapporto eterosessuale sia invece riduce la promiscuità, cioè dovrebbe, no? Ridurre la promiscuità. Quindi io sono assolutamente favorevole, non capisco, cioè io capisco, qui in Italia chiaramente c'è un dibattito, anche in Spagna, perché l'altro, diciamo, l'altro paese, nonostante il fatto però che in Spagna Zapatero, ci sono con Zapatero ci sono. Lì, sì, infatti Zapatero, sì, ma lì quando è successo e praticamente c'è stata una grossa opposizione della parte, diciamo, della parte cattolica, tradizionale cattolica, per cui insomma la maggior parte dei cattolici sono a favore del matrimonio gay. Allora io penso che qui ci sia appunto un problema relazionato al fatto che c'è un cattolicesimo molto conservatore, uno zoccolo duro di cattolicesimo molto conservatore, però è facilmente superabile, nel senso non oramai nel mondo nessuno parla di rapporti gay come di rapporti diversi dai rapporti eterosessuali. Tra l'altro, la cosa che appunto dicevo all'inizio mi ha positivamente sorpresa è che Cameron, conservatore, e anche gli altri suoi parlamentari hanno detto: noi votiamo i matrimoni gay nonostante siamo conservatori, ma proprio perché siamo conservatori vogliamo conservare l'idea di famiglia, di un nucleo familiare fondante, vogliamo che tutti quelli che sono in grado di farla, che desiderano farla, la facciano. Quindi questa è una risposta effettivamente riduce la promiscuità nei rapporti tra le persone, ma anche dà un grosso contributo ad una società più coesa, perché chiaramente una società più coesa è una società che poggia sulle famiglie, non sui single o su, diciamo, rapporti non ben codificati. Non stabili. Sentiamo Marco da Roma, all'800240024. Marco. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire tre cose. Una su Vendola. Niente poco di meno. Sì, adesso me le appunto. Sì, molto rapido, molto rapido. La prima: Vendola non può uscire la sera, ma penso tutti i politici non possono uscire la sera, perché i romani sono un po' arrabbiati con da destra a sinistra. Poi, se vogliamo, forse non pensano al cittadino comune che magari va alla stazione e è pericolosissimo, quindi in materia di sicurezza Roma sta diventando una cosa un po' drammatica. Per quanto riguarda prima il Consiglio dei Ministri, si è dimenticata di parlare del Movimento 5 Stelle. Che il Movimento 5 Stelle... No, ma l'avevo premesso che su il Corriere della Sera c'erano gli schemini dei tre principali, quelli che sono considerati. Sì, i tre poi ha parlato anche di Giannino, ha parlato di altre cose, ma non ha parlato di Movimento 5 Stelle. No, di Giannino ho soltanto detto che è uno dei candidati. Hai ragione, c'è anche Grillo. Certo. Ti dico una cosa, anche però. Grillo, però volevo dire due cose anche di Grillo, perché sì, per certo. Esempio la diminuzione dello stipendio dei movimenti dei parlamentari di quasi il 70%, l'abolizione del finanziamento pubblico, il controllo degli ultimi 20 anni di cosa hanno fatto economicamente tutti i politici, per non parlare dell'abolizione della GERIT, del reddito di cittadinanza. Beh, queste cose, il reddito di cittadinanza significa... Questo è interessante, che, poi voglio chiederlo a Loretta Napoleoni con il pensiero del reddito di cittadinanza. Dico questa cosa proposto da Grillo. Sì. Il reddito di cittadinanza significa, per chi non lo sa o non l'ha letto, che i giovani possono avere per un breve periodo di tempo uno stipendio, e poi iscritti all'ufficio di collocamento, se hanno le possibilità di avere un lavoro lo prendono, altrimenti chiudono con reddito di cittadinanza, visto che ci sono chi ha la fortuna di lavorare e va in cassa integrazione, tipo quelli della Fiat, per 6 mesi, poi rientrano, cioè chi lavora è sempre più tutelato, cioè chi non lavora dipendente, è sempre meno dici. Tutelato. Un'altra cosa, volevo fare domanda alla signora che sta parlando, non mi ricordo come si chiama. Loretta Napoleoni, sì. Loretta Napoleoni, ma come possiamo dare fiducia a questi politici che insieme da 20 anni ci governano, hanno distrutto questo paese e si ripresentano di nuovo con le stesse facce? Senti, grazie, Marco, tante, no, aspetta, complimenti no, per la trasmissione. Ti ringrazio, grazie. Marco, volevo dirti solo questa cosa, però io una cosa riproverò a Grillo, anche se bisogna dire che è l'unico che sta riempendo le piazze, un fenomeno che non si vedeva forse dal secondo dopoguerra, devo dire, è capace di farlo. L'unica cosa è, non si capisce ancora bene, io sarò poco informata, chi è il candidato premier, per questo quando fanno gli schemini propongono quei cinque, manca Grillo, perché non si sa bene chi proponga e perché non ha fatto conoscere meglio i suoi candidati, perché si parla sempre di Grillo e Grillo, però perché non li ha fatti conoscere? Lui, c'è una regola che non devono andare in televisione, non devono rilasciare interviste, però invece è importante perché la gente sappia chi votare, va bene sul territorio, ma perché io non posso sapere chi è candidato in Sicilia o che ne so, in Liguria o in Toscana, perché non lo devo sapere? Su questo, secondo me, ha fatto un po' un errore, ma è una mia personalissima opinione, Loretta Napoleoni. Quindi Marco parlava del reddito di cittadinanza proposto da Grillo, parlava della poca, scarsa fiducia naturalmente di quelli che si ripropongono e si ripropongono e si ripropongono. Sì, sì. Dunque, allora, prima cosa, Grillo riempie le piazze anche perché è l'unica persona che va nelle piazze. Sì, e io, certo, questo devo dire la verità, che è ammirevole. È un suo merito, senza dubbio. Perché senza questi dubbio. Se ne stanno dentro le poltrone delle televisioni, le poltrone delle televisioni e parlano e non fanno assolutamente nulla. Quindi, sotto questo punto di vista, senza io penso, ecco, tanto di cappello a Grillo. Ecco, meno male che siamo tornati alla politica vera, che è quella lì in cui uno parla e si guarda negli occhi invece di stare seduto su una poltrona di uno di questi talk show. Mm. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, io devo dire la verità che non sono molto d'accordo. Il sussidio di disoccupazione, per esempio, mio figlio ha finito l'università. Uno dei tuoi quattro figli, sì. Uno dei miei quattro figli ha finito l'università e non ha trovato lavoro per quattro mesi. Durante quei quattro mesi ha percepito un sussidio non di disoccupazione, ma appunto equivalente a un reddito di cittadinanza. Lui dove vive? Gli Stati Uniti, Londra, Roma? Dove, visto che tu giri in Inghilterra, il mondo. A Londra, lui vive a Londra. E questo gli ha permesso di avere, diciamo, certo non ci poteva vivere, però gli ha permesso di non dipendere dalla famiglia, anche perché nella ricerca del lavoro uno spende dei soldi. Allora, sicuramente questo è auspicabile. Il problema è che noi abbiamo un mercato nero enorme. Allora, come facciamo a sapere se questo ragazzo veramente non ha un lavoro, oppure se questo ragazzo lavora nel mercato nero, dato che non è registrato, e percepisce il reddito di cittadinanza praticamente dichiarando il falso. Ecco, ma non tuo figlio? Non tuo figlio. No, mio figlio no, chiaramente mio figlio no. Però un altro dice... Però dico, in Italia, avendo in Inghilterra il mercato del lavoro nero non c'è. È molto molto piccolo. Mm. Anzi, quasi non esiste, diciamo. In Italia il mercato del lavoro nero è enorme, enorme. Lo stesso precariato in realtà per tanti aspetti fa parte del mercato del lavoro nero. Nel senso, molto spesso questi ragazzi lavorano senza essere registrati, lavorano senza avere un vero contratto di lavoro. Allora io potrei finire, io Stato, a dare un reddito di cittadinanza a persone che già lavorano, che però lavorano nel mercato nero. Allora, quindi prima di fare il reddito, prima di introdurre il reddito di cittadinanza, noi dobbiamo introdurre una moralizzazione dell'economia in Italia e quindi punire duramente chi opera nel mercato nero del lavoro. Che tempi lunghi, vedo che tempi lunghi, cara Loretta Napoleoni. Appunto, queste sono tutte queste proposte sono fantastiche, fantastiche, però bisogna poi applicarle ad una realtà che è una realtà italiana completamente diversa da quella magari di paesi come la Gran Bretagna o come la Svizzera. Senti, sentiamo Carlos al numero verde 800 24 00 24. Che ci dici, Carlos? Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie. A te. E niente, soltanto io vengo da un altro paese, da 24 anni sono qui. Ne avevo il sospetto da dal voi. Nome e con l'accento. Da dove vieni, Carlos? Vengo dall'Uruguay. E praticamente lì la storia politica, sociale, come sapete, ha un percorso per il quale si è arrivato oggi a vivere un po' meglio degli anni scorsi, delle stagioni scorse. Giustamente la vita è molto cara, però c'è un benessere che prima non c'era. Parlando d'Italia, io penso che non ci sta la consapevolezza di che non soltanto per il singolo politico è quello che deve governare per se stesso. Siamo tutti uniti in tante cose, Cioè non è che soltanto perché un politico governa ha il diritto di pensare a se stesso e alla sua, al suo staff, deve pensare pure alla società che rappresenta. E questo secondo me ci sta un po' la mancanza, che il politico si ricorda dei cittadini quando ci sono le elezioni e poi si scorda un po', e poi giustamente succede questa cosa dopo tanti anni. E far partecipe alla popolazione di quello che si pretende fare è molto importante, e che oggi come oggi non si fa. E l'altra cosa è che sono un po' emozionato, scusate. No, prego, caro. È che ci sono tanti politici che promettono, però io da ignorante che sono, penso che ci sono delle cose che non potranno fare mai, perché i conti pubblici bisogna metterli a posto, le pensioni bisogna metterle a posto, la scuola, la salute, l'evoluzione dei nostri futuri cittadini devono essere messi in un che li permetta crescere. E quindi Carlo, se in tutto questo, perdonami se sintetizzo perché abbiamo la viabilità incombente, tu ti sei fatto un'idea di che cosa voterai? Sì, voterei del meno peggio, giustamente, non posso dire chi, però dico, mi piace la gente che ossa, la gente che cerca di cambiare, e poi lo fa veramente. Chiarissimo, Carlo, speriamo. Grazie Carlo, forse il concetto è questo, diciamolo, è purtroppo svilente in Italia, ma si vota il meno peggio, almeno da molti punti di vista, poi ognuno saprà per conto proprio. Massimo da Milano. Beh, cosa è successo? Massimo? Tu? Sì. Salve. Ciao Massimo. Sì. Senta, io ho acceso la radio quando parlavate delle tangenti. Sì. Allora, io volevo fare per esperienza personale. Potevi accenderla anche prima, ti dirò. Massimo, la radio, cioè quando tu sai che alle 14 inizia, non ci sono più le mezze stagioni, tu tac, accendi subito. Beh, no? Lo so, però ero dalla fidanzata. Vabbè, scusiamo, okay. La fidanzata. Diglielo anche alla fidanzata la prossima allora, volta alle 14. Volevo dire sì. Questo. Sì? Io che ho una certa esperienza di lavoro, in certi ambienti, se tu non paghi le tangenti, il lavoro non lo fai, lo fanno gli altri. Per cui io capisco l'etica, ma se non fai così, è così. Se poi dopo abbiamo della gente disonesta che poi i soldi li fa rientrare a beneficio proprio, sono perfettamente d'accordo con voi. Però come si dice, c'è un vecchio proverbio che dice, chi va al mulino si infarina, l'importante è non rubare i sacchi. Caro Massimo, io ti ringrazio, molto pragmatico, però come dicevamo, insomma, lo so che la situazione è questa, anche in Lombardia, un po' in tutta Italia. Certo che se si continuano, diciamo, a rendere sempre più lassi i lacci delle regole, delle norme, eccetera, veramente diventa un'anarchia totale ed è la legge del più forte. Vediamo se riesco a leggere chi l'ha sparata più grossa sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Ne leggo qualcuno. Domenico dice, Berlusconi dice a Balotelli che è una mela marcia, da che pulpito, anche se poi dopo si è scusato e l'ha comprato. Armando, credo che ne abbiamo sentite pure troppe. Ciro dice la più grossa è restituirò l'IMU. Bianca, il soggetto suddetto Berlusconi ormai è solo da affidare ai servizi sociali. Gabriella, ho sentito Dario Fo presidente della Repubblica. Poi dice Andrea, forse Casini oggi si è piazzato in pole position qualche giorno fa, non so se stava parlando dei gay o di cosa. Sabrina, anche la storia della Finocchiaro e le bidelle, la senatrice del PD che aveva detto stiamo parlando di parlamentari, mica di bidelle. Poi si è molto scusata, giustamente. Gianni, che il PD, la più grossa è che il PD non si allierà con Mario Monti. Raffaele, chi le spara più grosse lo sappiamo. Il punto è che siamo talmente messi male che tanta povera gente gli crede e lo voterà. Stefano, la più grossa è 4 miliardi di euro per rimborsare l'IMU del 2012 e gli italiani li prenderanno dalla tassazione dei capitali, scusate, portati in Svizzera. Corrado, lui sempre il numero uno, restituzione IMU, poi 4 milioni di nuovi posti di lavoro, a pari merito Grillo con 1000 euro al mese, dice ai disoccupati per 3 anni, quindi cita anche Grillo, e Monti dice con 15 miliardi di riduzione delle tasse. Poi Don Severino, che ritornerà poi tra qualche settimana, dice è difficile scegliere, ce ne sono moltissimi, anche per me è difficile scegliere, li sto guardando così un po' alla rinfusa. Francesca Maria dice la politica al servizio dei cittadini, questa è la sparata più grossa. E poi vediamo un po', parlano anche dell'amnistia, qualcuno è d'accordo e qualcuno no. Molta partecipazione, e intanto direi che andiamo subito verso il nostro appuntamento, prima di Maurizio da Torino e prima di ritornare con Loretta Napoleoni, con il nostro appuntamento, diciamo qui 3 minuti col porcellum potrei dire. Caro Giuseppe Busia, esperto di diritto costituzionale, Sai che si parla, ciao Giuseppe, si continua a parlare in modo un po' martellante del voto utile, voto utile soprattutto da parte dei due schieramenti maggiori, quindi PD da una parte, Bersani che dice mi raccomando non disperdiamo voti perché sarebbero inutili. Berlusconi addirittura fa anche un po' di propaganda al PD dicendo sin dall'inizio piuttosto votate il PD ma non i piccoli, i piccoli si incacchiano poco giustamente, no? Perché dice insomma allora che siamo inutili. Come mai c'è questa storia del voto utile, inutile, il nostro porcellum? Da cosa è determinato? Sì, perché un'altra delle caratteristiche del nostro sistema elettorale è quella di avere degli sbarramenti. Cosa significa sbarramenti? Vuol dire che i partiti o le coalizioni che non raggiungono una determinata percentuale rimangono fuori dal Parlamento, è come una asticella che o si scavalca o si è squalificata. Alla Camera cos'è? Il 4%, al Senato l'8%? Alla Camera le liste, le singole liste non collegate sono Camera 4% e 8% al Senato. Per le coalizioni sono diversi, ma quello centrale è quello da tenere a mente un po' questo. Il senso è appunto quello di evitare che ci sia un'eccessiva frammentazione. E l'appello al voto utile nasce proprio da questo, cioè quello di dire, ovviamente lo fanno le coalizioni grandi pro domo propria da sempre, e questo è ognuno si regola come ritiene. Da oggi non ci sono più i sondaggi e quindi non è più vietato. Possibile verificare, potrebbero esserci dei movimenti, però il voto dato fuori dalle coalizioni, perché all'interno delle coalizioni anche le liste più piccole in qualche modo concorrono a raggiungere il premio di maggioranza, mentre al di fuori delle coalizioni il voto non viene utilizzato. Per cui, siccome ci siamo detti l'altra volta, il Senato è un voto un po' più delicato e come giustamente ricordavi tu lo sbarramento è più alto, si può dire, come dicono in Francia hanno il doppio turno e si dice che al primo turno si vota con il cuore, al secondo con la testa. Potremmo dire, per dare un consiglio, alla Camera si vota con il cuore e quindi tutto sommato se non si raggiunge lo sbarramento per come funzionano i premi la partita è già decisa altrove, al Senato dove la partita è più delicata forse bisogna votare con la testa e rappresentarsi se la lista che si vuole votare può o no raggiungere l'8%. Questo è probabilmente l'elemento per usare in modo intelligente il complicatissimo porcellum. Questo porcellum veramente complicativo, prima o poi lo facciamo arrosto, si spera. Grazie Giuseppe Busia. Grazie mille Giuseppe. Grazie a te. Al prossimo sabato. E comunque certamente voto utile, voto inutile, ognuno sa qual è il proprio voto utile, quello che sente di più. Maurizio da Torino, riesci proprio, diciamo in 4 secondi, perdonami, siamo proprio in corsa. Maurizio? Sì, pronto? Sì, eccoci qua, sì. Pronto, ciao, io sono Maurizio. Sì, questo è chiaro. In questo momento io sono di Torino ma sono in Puglia per lavoro, sì. Sono in un supermercato. Come ma siamo italiani. Sintetici, va bene Maurizio. Sì. Allora, amnistia, volevo parlare di amnistia. Una parola, dimmi, sull'amnistia. Una parola, non ci sono posti di lavoro, lo Stato si deve fare carico di quello che sono le sue responsabilità, non può scaricare ulteriormente le responsabilità sui cittadini. Che è successo? Sta comprando il detersivo e è caduto giù la pila di Maurizio. Eri lì al supermarket, tutto bello rilassato. Vabbè, insomma, salutiamo Maurizio. Vi ricordo che c'è sempre la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni per i vostri commenti. Potete riascoltare il podcast da lunedì sulla pagina stessa o su www.radio24.it. A Loretta Napoleoni, col suo libro Democrazia vendesi. Loretta, ho guardato un libro di una fotografa americana, se non sbaglio, Nancy Rica, e ho scoperto un sacco di professioni molto originali negli Stati Uniti. Per esempio, l'annusatore di ascelle per testare i deodoranti, il produttore di polli di gomma, l'assaggiatore di cibo per cani, il grossista di vermi, lo spolveratore di scheletri di dinosauri, che se rinasco voglio spolverare anch'io gli scheletri di dinosauri. Dice che ci potrebbero essere delle buone prospettive anche in Italia? Visto si parla di occupazione, di lavoro? Spero di sì, ci vuole un po' di immaginazione, non nella politica, quindi non nella campagna elettorale, ma nell'economia, quindi nel mondo degli affari, nel commercio. Tutta questa immaginazione che ci abbiamo, spostiamola. Spostiamola nel modo giusto, grazie a Loretta Napoleoni con Democrazia Vendesi e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.